Dove eravate quando vi hanno rubato qualcosa? In macchina? A casa? Per strada, magari? In metropolitana? Al bar? E voi? Avete mai rubato qualcosa? Anche piccola, eh? Anche senza significato. E quindi? Esattamente dove siete? Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Devo avere spaccato la macchinetta che distribuisce le bottiglie giù al bar. Visto che lo diciamo, eh? La verità del giorno è questa qua. Non so esattamente cosa, però eravamo io e il Genovesi e non scendeva la bottiglia. E cosa fai quando non scende qualcosa? Dai un sarcollone a sta macchinetta. Io gli ho dato una spallata sulla parte frontale, quella che è illuminata, e credo ci sia del vetro dietro, non lo so, o una roba di plastica. Però ha fatto proprio PUM! PUM la spallata, poi il rumore che scendeva. Però l'ho detto, anche giù l'ho detto, dico, ho rotto, credo di avere rotto qualcosa. Sono le 16:08 minuti, questa era la verità del giorno, l'altra verità è che ieri mi hanno rubato una borsa dall'automobile. Olè! Che non era neanche mia, cioè la borsa era mia, l'automobile non era mia, è di Luca che già mi detesta perché sono stato in casa sua per quasi 2 settimane. E adesso quanto verrà un vetro di un'automobile? 100 euro, 100 euro. Magari, vabbè, fai anche 150. Sapete che non si dice mai lasciare una roba sul sedile posteriore, mai, soprattutto se sei in un posto tipo una grande città o se sei in un autogrill. Eccolo qua. Sono le 16:09 minuti, buongiorno ancora a tutti. Oggi è una giornata magnifica a Milano, nonostante non abbia più la borsa con dentro degli... Che poi erano della roba che non serviva a niente, perché erano degli abiti da quindicenne che mi ero portato a casa da casa dei miei, perché comincia a fare freddo, infatti oggi c'è il sole. Però poi, chiaramente ci vuole palle girate, ieri sera pure stamattina, però poi oggi quando lo raccontavo in redazione questa cosa è venuta fuori la questione del... sì, va bene, è brutto quando ti rubano una cosa, no? È orribile quella sensazione lì che c'è una roba tua, la storia che ti sfondano e quindi c'è un'intrusione nella tua proprietà e tutte ste menate. Però alla fine, tutti quanti abbiamo rubato qualcosa. Non dico, ehi, fermi lì, non dico una borsa sfondando una macchina o entrando in casa di qualcuno, dico un cioccolatino, un ombrello, oppure che non ho pagato un aperitivo, ok? Tutti l'abbiamo fatto, anche voi. 800 24 00 24, 349 238 6666. L'avete capito ormai che a quest'ora qua, attorno alle 16:10, tra le 16:10 e le 16:45, se avete una roba da confessare potete farlo serenamente. Guardate, non dico nemmeno il vostro nome. 800 24 00 24, 349 238 6666. Ripeto, cose piccole, ad esempio sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. Sono arrivati messaggi che sono esattamente in linea con questa cosa. Allora, Paola, io ho fatto il più classico dei furti: un barattolo di Nutella in un supermercato, la volta della mia prima vacanza da sola con un'amica. Mirko, quando ero piccolo ho rubato due cose: un pacchetto chewing gum Brooklyn del tabaccaio vicino a casa dei miei genitori, una rivista pornografica dell'edicola nei pressi della medesima casa. Ho poi variato chiaramente la mia residenza. Domenico, io quando ero piccolo ho rubato alla standa i famosi soldatini Atlantix. Talmente famosi, eh? Pure Pietro alla corte, Vittoria, niente. I famosi soldatini, poi mi hanno beccato. Da allora ho capito che non era tagliato per il ladro. Meglio pagare. 800 24 00 24, 349 238 6666. C'è tra l'altro una policy nei supermercati. Credo anche all'IKEA abbia una policy, ne parlavamo l'altro giorno, per cui tipo se ti beccano la prima volta ti lasciano andare. Alla Fnac hanno una policy per cui se tu rubi una cosa ti dicono vabbè, facciamo finta di niente, la seconda volta ti portano direttamente in gattabuia. 800 24 00 24. Serena si giustifica. La giustificazione è la cosa che preferisco. L'altro giorno si è messo a diluviare all'improvviso e avevo un impegno un'ora dopo. Mi sono coperta per un po' con un sacchetto, però ha funzionato poco. Sono entrato in un grande negozio con l'intento di comprare un ombrello, sai, magari a 2 euro. Quando mai a 2 euro? Manco il pakistano, almeno 5 gliene devi dare. Niente, prezzi esorbitanti. rispetto a quello che speravo di spendere. Così, oddio che vergogna, ne ho preso uno in prestito, tra virgolette in prestito, senza che nessuno vedesse. Adesso si è asciugato ed è pure pulito. Direi che posso tornarlo di nascosto. Che italiano ha, Serena? Direi che posso tornarlo di nascosto. Sig. Bisogna cercare dei compromessi con la propria coscienza. No, Serena, semplicemente che ti sei fottuta un ombrello. 800240024 349-238-6666, perché tutti l'hanno fatto, anche quella donna indefessa che è Vittoria Mussini, che prima ha raccontato di aver, dando la colpa al suo ex fidanzato, di aver rubato uno spremi agrumi. No, uno spremi limone. Uno spremi limone. Credo che sia quello per il tè, probabilmente. Per il tè, brava, dice di sì. Uno spremi. Qualsiasi cosa abbiate mai rubato in vita vostra, con tutto che fate poi opera di mea culpa, mea grandissima culpa. 80024 0024 oppure 349 238 6666. Io invece ieri sono stato rubato, mi hanno rubato una borsa ed è andata grosso modo così. Ieri il mio amico Luca, quello che mi ospita, mi ha prestato la sua auto per andare a casa dei miei. Io non ho abiti pesanti qui a Milano e quindi volevo prendere un paio di maglioni di lana, che la sera comincia a fare un po' freschino. La macchina di Luca è una macchina bassa e lunga, con il tetto che si apre. C'ha un motore che consuma litri e litri di benzina. Non ho mai capito a cosa servano le macchine così potenti e così costose. Ricordo che all'università, durante una lezione di sociologia di qualche cosa, una professoressa non esattamente maschilista disse che era un surrogato dell'organo sessuale maschile. Un modo per dimostrare di essere i più forti, i più potenti. Mi è sempre sembrata un po' riduttiva come visione, però è anche vero che alla fine ognuno di noi nasconde cose misteriose nella propria testa, quindi non è possibile indagare sempre tutte le ragioni di tutti, no? Tant'è, su quell'auto mi sentivo un po' fuori luogo. Non lo so, probabilmente perché non c'ero abituato, però ero troppo basso, c'era proprio scemo. Io preferisco le macchine piccole funzionali, con la forma da macchina, con un motore economico, insomma, proprio come quella che ho venduto a giugno. E che, se devo proprio dire la verità, e lo devo fare vista la mia decisione, quella macchina mi manca da morire, vorrei tanto ricomprarla. Beh, comunque Luca è stato gentilissimo e la sua auto alla fine me l'ha prestata. Io avevo intenzione di prendere poca roba, però mia mamma non sarebbe stata tranquilla se non avessi portato via, oltre a qualche maglione di lana, anche un paio di pantaloni di velluto, qualche camicia, una giacca e un giubbotto pesante. Il tutto ovviamente preso nell'armadio della cameretta di quando ero bambino, quindi potete immaginarvi che tipo di roba avessi in quella borsa. Quando ho aperto l'armadio sembrava il guardaroba di Carlo d'Inghilterra. Carlo d'Inghilterra quando aveva 15 anni, però. Robe tipo pantaloni di velluto a coste, camicie di flanella, giacche con le spalle troppo larghe. Ah, e poi maglioni di colorini improbabili, tipo verde acqua, beige, rosa salmone. Prima di uscire mi sono provato alcune di quelle cose e mi sono guardato allo specchio. Tutto mi sembrava troppo largo e troppo cadente. Come se io fossi stato molto più grande e molto più grosso a 15 anni che non a 35. Ovviamente non è così. È solo che tutte le cose che riguardano il mio passato mi sembrano fuori misura. È come se avessero una dimensione che non è la mia. Come se guardassi il film in cui il protagonista non sono io più giovane, ma un ragazzino che non ricordo di essere stato, con paure e speranze che non riconosco. Sì, il mio passato, quando ci penso, mi appare come una vela bianca all'orizzonte. Avete presente quella che tutti i pittori dipingono sullo sfondo dei quadri di mare, no? È una sagoma bianca e triangolare, che è familiare perché ce l'hai presente, ma che non ho mai visto da vicino. Preferisco immaginarla lontana, su una striscia disegnata blu, pensare che sia partita da chissà dove e sia diretta in chissà quale porto. Penso che a vederla da vicino, quella vela, non mi piacerebbe. Ecco perché preferisco immaginarla là, che si allontana. Ho infilato quei vecchi abiti nella borsa, l'ho buttata sul sedile posteriore e alla fine sono salito in macchina. Things we do and the things we let between the tide and the cigarettes. All the cups we cannot sip between our legs across our lips. All the places we will meet between our start and our winding sheet. Some will leave and some will walk. Hung like thieves we sing across. Don't go. Sull'autostrada da casa dei miei a Milano c'è solo un autogrill. Non capisco quale strano fascino abbiano su di me questi supermercatini da viaggio. Eppure, ogni volta che ci passo davanti, trovo una scusa per andarci. Forse perché da bambino i miei ci si fermavano il meno possibile, giusto per il rifornimento e la pipì. Perché panini e bibite ce li si portava sempre da casa, tutto già pronto, compreso il tè freddo che fatto in casa è molto più buono dell'estate. L'altra sera non volevo del tè freddo, però appena ho visto il cartello dei 1500 metri per l'autogrill ho subito messo la freccia. Ho parcheggiato vicino al distributore e sono entrato. La sera i commessi degli autogrill sono diversi da quelli che ci sono durante il giorno. Cioè sono diversi anche i frequentatori, però i commessi lo sono di più. Che poi probabilmente i commessi degli autogrill fanno i turni, quindi prima o poi il turno di notte se lo beccano tutti. Però ogni volta che vado alla cassa di un autogrill di notte, mi sembra che la loro faccia sia diversa dalle altre. Più segnata, più stanca, più matura delle facce che si incontrano per strada. Un po' come le facce dei portieri di notte degli alberghi, che non capisci mai se sono stati dei delinquenti o se sono solo stravolti dall'effetto della giornata rovesciata. Ieri sera mi sono preso un cappuccino e un pacchetto di Fonzi, che mi piacciono da morire, anche se mi lasciano le mani che puzzano di formaggio per una settimana. Sono andato in bagno e poi sono uscito. Sono arrivato alla macchina di Luca e non me ne sono nemmeno accorto subito. L'ho aperta col telecomando da lontano, sono salito e quando ho acceso il motore mi sono accorto che il rumore era strano, era troppo forte. Allora mi sono girato e lì l'ho realizzato. Il finestrino posteriore era sfondato, il sedile era pieno di frammenti di cristallo azzurri e la mia borsa non c'era più. Vi hanno mai rubato qualcosa? A me sì. Una Vespa, uno scooter e una fidanzata, ma questa è un'altra storia. Però qui non è la stessa cosa. Cioè, quando ti rubano una cosa intera, come una moto, come una macchina, è quasi una mutilazione, cioè il fatto di vedere uno spazio vuoto dove c'era qualcosa di tuo è una sensazione a cui non riesci a credere, al punto che ti sembra impossibile non vedere qualcosa che sei sicuro fosse esattamente lì e all'inizio ti sembra di vederla, è solo quando ti avvicini che non la vedi più. Ecco, in questo caso è diverso. È diverso perché innanzitutto c'è un atto di violenza. C'è qualcuno che con un braccio, un sasso, che ne so, ha sfondato il vetro di una macchina e poi non si è preso tutto. Cioè non si è preso l'auto, non si è manco preso l'autoradio. Si è portato via solo quella borsa piena di abiti da quindicenne. Sono sceso dall'auto e mi sono messo a girare intorno alla macchina come per cercare qualcosa. Un motivo forse. Una colpa pure. Colpa mia, ovviamente. Che non avevo parcheggiato sotto la luce, che non avevo nascosto la borsa. Colpa di chi era nel parcheggio e non ha detto niente. Mi sono sentito un cretino con la voglia inutile di autogrill e la puzza di formaggio sulle mani. Improvvisamente era come se tutto quello che avevo fatto per arrivare fino a lì fosse stato stupido e prevedibile. E tutti i se sono emersi al mio cervello. Se avessi dormito dai miei, se fossi tornato in treno, se non mi fossi fermato, se avessi messo la borsa nel bagagliaio, se. Invece l'unica verità era che mi trovavo lì senza la mia borsa e con un finestrino in frantumi da ripagare. E forse, in fondo, non era nemmeno colpa di nessuno. Just 9.45 venerdì, la notte tra giovedì e venerdì 10 settembre 2010. Sono all'autogrill di Ropero, credo, sull'autostrada che da Torino va a Milano. Mi hanno sfondato il vetro della macchina, che manco è mia. Mi hanno rubato una borsa tra l'altro orribile, con dentro vestiti schifosi, la borsa era brutta. Hanno lasciato tutto il resto, fortunatamente peraltro, l'autoradio, il navigatore. Ok, io sono un pirla che lascia la borsa sul sedile posteriore, però che cazzo, non c'è nessuno in tutta l'auto, che ci sono 3, 4, 5, 7 macchine, nessuno ha sentito un vetro di una macchina che si rompe. Vabbè, sono un cretino. Vabbè. È l'una e 47, vabbè. Venerdì 10 settembre 2010. Forse devo smetterla di registrare proprio tutto quello che mi passa per la testa. Dovrei lasciarla a casa con il registratorino. 16.25, questa è sempre Radio 24. La verità del giorno, oltre che mi hanno rubato la borsa, è che devo avere rotto qualcosa in un distributore automatico giù al bar. Non so esattamente cosa, so che ha fatto PUM! E Marco mi scrive: caro Matteo, hai rotto il neon del distributore. Marco, tecnico di distributori automatici. Pronto, Marco? Sì, ciao. Senti, cosa vuol dire il neon del distributore? Perché però non si è spenta la luce mentre io... Ma visto che per lavoro faccio appunto... Il tecnico? Il tecnico di... del riparo, o meglio... Sembra più il filosofo dei tecnici che riparano i distributori, da come parli. Hai proprio una voce da... Il filosofo dei tecnici non è male questo. Quindi no. Scusami, che cos'è? Il neon, ti ripeto, però il neon sarebbe stato acceso se io l'avessi rotto, no? E quindi ma si sarebbe io, spento. Siccome dicevo, ho il brutto vizio di ascoltarti mentre lavoro. Sì. Anche perché. Dimmi cosa ho rotto. Marco, dimmi cosa ho rotto, che ce l'ho qua. Ti prego, dimmelo. Che cos'è? Credo il neon, ma però. Ripeto, non avendo presente il tipo di macchina che tu hai shakerato ben bene. Però scusami, posso... tu confermi, Marco, che la prima roba da fare è quando non ti dà il prodotto e dargli uno scossone? Assolutamente no. No, certo, bisogna star lì ad aspettare. Perché tanto non serve a nulla, quindi. Ho capito, perché tu sei il filosofo dei tecnici e dei distributori. Esatto. Da quanto fai questo lavoro, Marco? Da troppo tempo, da sempre. Dove? In che zona? Dove sei? In quella zona dove ti hanno sfondato il vetro. Cioè sei a Roa, Pero? Da quelle parti lì. Tu hai mai rubato niente nella tua vita, Marco? Rubato. Niente, Marco parte subito con la filosofia. Una robina, un oggetto, un cocktail non pagato. Niente, deve... Ma forse un caffè al bar. Forse un caffè al bar. 80024. Detto da me è gravissimo. È gravissimo. Grazie Marco. 80024, 0024. Se avete rubato qualcosa anche piccolo ce la raccontate. Rubare! Come hai potuto? Non hai imparato niente da quello lì che fa i sermoni in chiesa? Capitano, come cavolo si chiama? Noi viviamo in una società di leggi. Perché credi che ti ho portato a vedere tutti quei film scuola di polizia? Per divertirti? Beh, io non ho sentito ridere nessuno! E tu? Eccetto quello lì che faceva il rumorista! Dove ero rimasto? Ah già, sta alla larga della mia birra! Radio 24, questo ovviamente invece era Homer dei Simpson, però gente che di roba se l'è portata a casa ce n'è. 349-238-6666 800-24 0024. Maddi, ho rubato un bianchetto da piccola perché mia mamma si rifiutava di comprarmelo, e da abbastanza grande un'orrenda pianta acquatica all'IKEA. Perché poi è vero, spesso ti porti via della roba che manco ti piace, però c'è qualcosa. Ho fatto un furto natalizio. Di notte ho rubato un alberello fatto di luci colorate, uno di quelli usati per addobbare le rotonde nel periodo natalizio, per accontentare il capriccio di una bimba. Andrea, ho una raccolta riposata di metallo di varie linee aeree, però questa non vale, le linee aeree saranno comprese nel prezzo, no? Da ragazzo sognavo il fugone al ristorante, sogno poi realizzato a 37 anni con l'inconsapevole famiglia. Goduria, Andrea. È vero, questo l'ho fatto anch'io. L'ho fatto pur, c'avevo, 20 anni, che questo me lo dimentica. Però vale come furto, sì, certo che vale. È proprio il più veloce, rimane alla fine e poi via. Ho preso una borsa convinta che fosse dell'amica che era con me. Quando una signora ha cominciato a gridare al ladro, ho guardato la mia amica che naturalmente aveva la borsa con sé. Ho restituito la borsa e la signora mi ha abbracciato convinta che fosse andata dietro al ladro. Non ho avuto il coraggio di spiegare l'equivoco. 800240024, andiamo ad Ancona, da Galdina. Pronto? Pronto? Buongiorno Galdina, come stai? Benissimo, grazie Matteo, sei un mito, mi fai divertire da matti. Ma Galdina, perdonami, è il tuo vero nome o è uno pseudonimo? No, magari, è il mio vero nome. E cosa è successo, Galdina, ai tuoi genitori quel giorno? Dunque, i miei genitori, poretti, niente, erano contenti, ma mia nonna era morta nel contempo e si chiamava poverina Galdina e a me è toccato in sorte il suo nome. Era una meravigliosa persona, comunque. Non ne dubito. E ha un significato, però? Sì, vuol dire boschetto, c'è il spuglietto fiorito, Gualdo Tadino, Bosco Tadino, Galdina... Ma fai l'insegnante di mestiere, Galdina, perché è un modo di spiegare strepitoso. No, però mi piace insegnare. E cosa fai nella vita? In questo momento niente, sono casalinga, niente, cioè lavoro come una matta. Cioè in casa, dici? In casa. Perché hai tipo 3 figli? No, però basta. Da fare, comunque. No, i figli sono grandi, non ho problemi di questo tipo. Che cosa confessati, Galdina? Che cosa hai rubato? All'università mi vedo scritto qua. All'università, a Venezia, milioni di anni fa, io e la mia migliore amica avevamo una voglia amata di trasgredire perché cresciute a non si deve, non si può, peccato, guai, abbiamo deciso che volevamo trasgredire. C'era un bar lungo il canale Rio Novo a Venezia, c'erano delle sedie da 1500 lire, poi le ho viste, di plastica lungo il canale, abbiamo detto bene, un bracciolo io, un bracciolo te, corriamo e rubiamo questa sedia. Abbiamo corso ridendo come matte, abbiamo preso la sedia, siamo salite per il ponte, abbiamo passato il ponte, ci siamo girate in alto dal palazzo, c'era un signore che ci guardava allibito, come dice, cos'è che fanno quelle due matte là? Questo è proprio, però è proprio spirito rivoluzionario questo, Galdina, è proprio che devo rompere qualcosa. Abbiamo messo questa sedia in camera e lì è rimasta esempio fulgido di trasgressione. Senti, tu adesso sei casalinga, ma cosa hai fatto nella vita? Ne hai risentito poi di questo furto? No, oppure? Assolutissimamente, ogni volta che ci troviamo io e la mia amica ce lo ricordiamo e ci raccontiamo le nostre trasgressioni. Dimmi un'altra trasgressione, visto che appunto la tua prima trasgressione è stata rubare una sedia da 1500 lire, dimmene un'altra di trasgressione che hai fatto, che mi sembra interessante. Oddio, alcune non si possono dire. Va bene, Galdina, grazie mille, buona giornata. Ciao, Matteo, ciao, alla prossima, ciao. Andiamo, siamo in provincia di Milano, sentiamo Irene. Pronto Irene? Ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie, tu? Ti sento un po' lontana. Sono in macchina, aspetta che mi fermo. No, ah, perché sei pure in movimento? Sì, faccio la tassista. Fai la tassista? La tassista a Milano, sì. Ma scusa, perché io ho la convinzione, adesso potrai insultarmi, che le tassiste a Milano siano mogli dei tassisti? Assolutamente no. No, cioè proprio no. Che uno decide di fare il tassista. Assolutamente, sì. Tu che macchina hai? Ho una Prius. Perché? Ah, c'è quella elettrica, ma ci sono gli sconti? Ibrida. Ci sono gli sconti per avere quella macchina lì ibrida? Ci sono stati gli sconti per un breve periodo, sì. Va bene, basta, adesso veniamo a te. Qual è stato il... Sì, no, infatti, non era per questo che chiamavo. No, però mi interessava... Scusa, sei in provincia di Milano, ma lavori a Milano però. Lavoro a Milano, sì. Ok, cosa che hai rubato e quando l'hai fatto? Ho rubato diverse cose. Come diverse cose? Diverse, nel senso nel tempo, tanti anni fa, mi ricordo un paio di occhiali alla Upim. Poi? Quando ero, ma ero proprio una ragazzina, me li sono messa nel marsupio e mi hanno beccato. E cosa ti hanno detto? Tipo il primo avvertimento? Sì, mi hanno detto, guarda... o molli tutto qua o chiamiamo i tuoi genitori, che okay, ho mollato tutto. Beh, ovviamente. Però invece qua hai fatto quello che mi è venuto in mente che ho fatto anch'io, hai rubato un pranzo al ristorante. Ho rubato un pranzo, sì, senza volerlo però. Quindi come senza volerlo? No, senza volerlo perché era tutto organizzato da un mio amico. Mm-hmm. Il furto era organizzato o il pranzo? Il pranzo, sì, cioè no, sì, il pranzo e il furto, tutto. Cioè, quindi voi consciamente siete partiti per fare un furto al ristorante? No, inconsciamente. Raccontami com'è andata perché mi sto perdendo. Allora, siamo partiti, questo nostro amico ci ha detto, andiamo, vi offro questo pranzo, eravamo a Torbole, sul lago di Garda. Sì. Siamo andati alla cantinotta, infatti io lo dico... Apertamente, chiedi scusa quasi. Apertamente, chiedo scusa. Chiediamo scusa alla cantinotta. Alla cantinotta. cantinotta di Torvole sul Garda. Sì. E siamo andati lì, abbiamo mangiato di tutto di più. Di tutto di più, erano in quattro. E cosa avete fatto? Siete semplicemente, vi siete alzati e avete fatto il fugone proprio? No, no, non è che io ho fatto il fugone. Questo qua, questo mio amico che era insieme con noi, mi ha detto, voi andate fuori, che penso io al conto. Ah, proprio un maestro quindi. Sì, sì, maestrissimo. E non vi ha detto niente? No, e noi siamo andati fuori nel parcheggio, quando lui è arrivato fuori, ci ha detto, andiamo, di corsa. Va bene. Senti, l'ultima cosa, sei ferma a una stazione dei taxi in questo momento? No, in questo momento no, mi sono fermato un secondo. Ecco, ma quelle colonnine lì che si chiama, funzionano oppure no? Alcune sì, alcune no. Ecco, va bene. Grazie mille, ciao. Ciao, buona giornata. Ciao, anche a te. Preparati per la tua sorpresa di bentornato. Homer, hai rubato l'organo alla chiesa? Forse, ma non ne sono convinti tutti. 800240024 oppure anche 349-238-6666, dove mi scrivono: il furto perfetto è quello inconsapevole. L'oggetto rimasto per sbaglio in fondo al carrello, oppure uscire ringraziando da un bar dimenticandosi di pagare. Quante volte succede e non ti beccano mai. L'uomo distratto è un genio del crimine. 800240024, andiamo a Torino da Ugo. Pronto, Ugo? Ciao, Matteo. Come stai? Bene? Io sì, sto bene. Tu come stai? Io sto molto bene, né? Senti, raccontami che cosa hai rubato, né? Allora, era intorno all'anno 65. Sì. Avevo 9-10 anni. Sì. A Torino, in Corso Vittorio Emanuele, angolo via Lagrange, c'era la casa degli italiani. Ugo, scusami, tu non stai facendo l'imitazione di un torinese, vero? Tu sei proprio torinese. Io sono di Torino. Benissimo, ok. Vai pure avanti. Vai pure. Poi a Paus. Vai pure avanti. Allora, ti stavo dicendo che andavo a scuola a San Giovannino dai Salesiani, no? Sì. Allora andavo a prendere il bus, il pullman, sì, a Porta Nuova, e passavo davanti alla standa. Certo. Pioveva. È finta sta telefono. Sono entrato dentro. Bonino, e girando tre cose ho visto il pacchetto di sigarette nazionali esportazioni colore verde. Sì. E c'erano le sigarette di cioccolato dentro. Certo. Io soldi non ne avevo. Mi piacevano e le ho prese. Ugo. E sono uscito. Ugo, e mi sono messo in bocca fumando. Ugo, quanti anni hai? È finta, Bonini, hai fatto una telefonata. Quanti anni hai, Ugo? 54. Ti ringrazio, buona giornata, Ugo, stai ciao, bene. Cioè, insomma, ciao, fai ciao. Il possibile per star bene, insomma. Andiamo da Bolo. Pronto? Pronto. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, bene, tu come stai? Da dove chiami? Adesso chiamo sono in strada, sono una piazzola della macchina, sentivo dall'autoradio. Senti, di solito mi scrivono, cioè mi avvertono che ho scritto il tema della telefonata, a te non ci ho scritto, dimmi cosa hai rubato tu, Bolo, quando l'hai fatto, quanto tempo fa? Ascolta, io ho sentito un sacco di cose qua in trasmissione in questo momento, ma insomma, io ci devo dirti l'ultima cosa che ho rubato, vabbè, un computer portatile, però non è tanto quello, è che c'è gente che lo fa per vivere questa cosa qua. Insomma, io faccio... Ma tu che lavoro fai, scusami? Faccio questo, faccio il ladro, voi chiamate così, insomma, faccio questo. Ma, entro negli appartamenti, faccio le cose e le rivendo. Ma di mestiere lo fai tu, Paolo? Se vuoi chiamarlo mestiere, che lo faccio per... Quanti anni hai, sì, scusami? 40. Ti hanno mai beccato? Come? Beh, diciamo, vabbè, sono... Cioè, ma sei stato in galera, quindi, anche... Ho fatto anche un po', sì. Ma scusami, tu sono robe... Adesso non mi ricordo mai la differenza, furto con scasso oppure... Cioè, nel senso che tu entri nelle case pure. Sì. Lo faccio anche non solo per me. Diciamo che... Cosa vuol dire? In che senso non solo per me, scusami? Cioè, nel senso Robin Hood? Commissione? No, cose così. C'è gente che ti chiede, c'è un giro, per esempio, ti chiedono di... Una volta l'ho fatto per uno di un detective privato, figurati, perché c'era una storia di corna di mezzo, volevano delle prove da prendere in un caso di questo. Cioè, tu non hai mai lavorato, perdonami, non che non voglia definire lavoro il tuo, cioè, però tu non hai mai fatto altro, non hai mai fatto, che so, il cameriere, l'impiegato, no? No, io ho lavorato un po' in fabbrica per... Sono stati tre anni e mezzo così, poi mi ha licenziato e ho cominciato, diciamo che ero in un giro di persone che sapevano come fare. Qual è stata la cosa più grossa che hai rubato? Dei tappeti di valore in una villa. E invece, tipo, a questo punto, hai mai sfondato il vetro di una macchina per rubare una borsa? No, quelle, cose lì no. Io, diciamo, quelle cose lì no, scusami, no. Non volevo metterti sul piano di quelli che mi hanno fottuto la borsa ieri in autogrill. No, cioè. però voglio dirti una cosa, quelle cose lì le fanno persone che non, diciamo che sono in difficoltà, è una roba, non so, lo fa il tossico, il marocchino. Vabbè, certo, quella gente lì che è in difficoltà. Scusami, un'ultima cosa, dimmi, visto che io so qual è la sensazione che si prova quando ti hanno rubato una cosa, perché l'ho provata ieri notte, mi fai il piacere di dirmi che cosa si prova invece quando rubi una cosa? Guarda, dipende, le cose, insomma, se è per te... Cosa vuol dire se è per te? Allora, ci sono delle cose che mi servono a me, me le prendo io, delle altre che sono su commissione, cioè ricetta. Va bene, ok. Quindi se è per te, dimmi se è per te, qual è la sensazione che provi? Beh, io personalmente soddisfazione, cioè va tutto liscio, va tutto bene, c'è la grande adrenalina e alla fine è top. Guarda, allora facciamo così, Bolo, chiudiamo in un modo che così fa incazzare un po' me e tutti quanti. Dimmi che alla fine è un lavoro come un altro. Secondo me è un lavoro come un altro. Oggigiorno con quello che ci rubano a noi bisogna eccolo qua, Filippotto Morale. Grazie Bolo, ciao, alla prossima. Ciao. Io ringrazio a sto punto Bolo, ringrazio quello che mi ha rubato la borsa ieri, ringrazio Pietro Lacorte, Vittorio Mussini, Alessandro Genovesi, Tiziano Bonini. Posso anche mandarlo a fanculo, Bolo, già che ci sono, visto che ci siamo. Vi ricordo invece a che punto sono oggi. Ho comprato una borsa nuova, ho ripulito i vetri rotti dal sedile dell'auto, ho detto al barista che non mi piaceva la brioche che mi ha dato. Ho spaccato qualcosa, ma non so esattamente cosa, nella macchinetta per l'acqua del bar e ho parlato al telefono con un ladro. Non so domani dove sarò, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?